140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri, uno speciale dedicato alla 22esima edizione del Courmayeur Noir in Festival. Pala Noir, Courmayeur. Ospite d'onore con le prime immagini del prossimo film Educazione Siberiana, con l'autore del bestseller Nikolaj Lilin, Gabriele Salvatores. Ho letto il suo libro e naturalmente poi subito dopo abbiamo dovuto incontrarci. C'è stato un primo momento in cui io ho capito subito che era una persona molto interessante e però avevamo due sceneggiatori che stavano già lavorando a questo progetto prima ancora che noi ci incontrassimo. Il vero rapporto, almeno per quanto mi riguarda, è nato in un secondo momento, quando abbiamo cominciato veramente a lavorare insieme, quando sulla base della sceneggiatura scritta all'inizio ci abbiamo cominciato a mettere anche la sua anima e la realtà delle cose che lui conosceva. Nikolaj, per te com'è stato questo incontro? Beh, io non potevo neanche sperare, perché Gabriele per me è stato un importante riferimento negli anni post militari, quando io sono tornato dalla guerra. Ho visto il suo film, che era bellissimo, molto poetico, mediterraneo, e ho ricordato il suo nome. Io non lo conoscevo, perché in Russia, insomma, di registi italiani, insomma, a parte Fellini, non si conosceva tanto. E io sono molto contento di questo incontro, sono felice. Abbiamo lavorato duro, non era un lavoro facile, però alla fine abbiamo fatto un bellissimo film. Io ho contribuito poco, ma poco, molto bello. Non poco, tantissimo, perché era non solo la partenza, che è il suo romanzo, ma poi lui è stato il nostro Virgilio, riferendoci a Dante e alla Divina Commedia, cioè la nostra guida in un mondo che non conoscevamo, quindi. Sì, perché è un romanzo molto complesso, un mondo diverso, un mondo lontano, un mondo geograficamente completamente diverso. Sì. Come l'hai affrontato? Beh, appunto, attraverso gli occhi di Nikolaj, cioè attraverso il suo sguardo e le cose che mi raccontava e le cose che c'erano nel libro, ma anche le cose che mi raccontava che non erano nel libro, che sono state molto molto utili per noi, molto. E quindi oggi si diceva, è vero, giustamente Giorgio Gosetti diceva una cosa molto giusta, riferendosi a un film Nirvana, che è un film di fantascienza, cioè, come diceva Philip Dick, grande scrittore di fantascienza, se vuoi costruire un mondo devi essere sicuro che le basi siano solide, reali, e lui è stato questo per noi. Poi certo, il mondo lo abbiamo ricostruito anche per fare in modo che non fosse un film documentario, ma che fosse un film di fiction, che quindi parlasse a tutti, ma che avesse grande rispetto per quel mondo che esiste veramente. Trarre un film da un libro che ha avuto un grande successo è spesso rischioso. Sì, ma mi è già successo con Niccolò Manniti, con Pino Cacucci. Lì si tratta di cercare di non fare le illustrazioni del libro, ma cercare di capire qual è l'anima del libro, e se necessario anche cambiarlo. Effettivamente la sceneggiatura ha una storia che nel libro non c'è, una storia storia tra Kolyma Gagarin e Xenia, e che però è solamente il, non so, la strada su cui poi possono veicolarsi tutta una serie di cose che invece nel libro ci sono. Quindi bisogna amarlo e tradirlo insieme, cosa che succede anche nella vita tra uomo e donna. Sì, io credo che il linguaggio cinematografico è molto diverso dal linguaggio letterario, per questo chi decide di raccontare la stessa storia, gli stessi sentimenti che percepiscono da un libro è obbligato di cambiarlo, cioè è impossibile creare una storia tale quale descritta attraverso il linguaggio letterario utilizzando il linguaggio cinematografico. Io questo lo sapevo dall'inizio e io sono molto felice che Gabriele, con sua grande sensibilità, perché una delle, a parte capacità tecniche e altre cose, adesso le faccio le lode, ma in realtà è che lui è molto sensibile, quindi la sua sensibilità ci ha permesso di raccontare gli stessi sentimenti, però raccontarli attraverso il linguaggio cinematografico, e non è una trasposizione cinematografica del mio libro, per me è una visione cinematografica della mia storia, che poi dopo è una cosa da approfondire, però per me è stato così. Io sono molto felice che è uscito fuori un bellissimo film. Io solo un'ultima curiosità stupida, ma insomma Gabriele Salvatore sarà l'unico che non avrà freddo qui a Courmayeur, perché hai sopportato ben altri climi. Sì, sì, no, è vero. Però sai, come si diceva ieri sera tornando in albergo, sono freddi diversi, è un freddo estremo, 30, 30, meno 30, meno 35, però è anche un freddo secco, meno umido che qui, quindi in qualche modo lo senti meno. È anche più pericoloso, perché non ti accorgi veramente. Si congela. La punta del naso, cioè per esempio a uno di noi c'è tutto un attimo, sì, esatto, c'è tutto, vediamo uno della truppa di Tuana che si dirige verso questo macchinista e lo prende proprio per il naso, lo trascina, e questo diceva lasciami, che cavolo fai? In realtà c'aveva la punta del naso, stava diventando bianca, e un secondo dopo si sarebbe aperta, quindi lui non ti accorgi, perché chiaramente il freddo ti anestetizza, e quindi ha preso, strofinato con la vodka, mi ha fatto riprendere. Sì, sì, però questo è il bello del cinema, le situazioni estreme aiutano. Hotel Grand Bite a Courmayeur. Un crudele web reality show diventa violenta realtà. È la storia di Cose Cattive, prodotto da Luca Argentero e diretto da Simone Gandolfo. Ma guarda, l'idea è nata perché io sono un po' ossessionato dai cambiamenti tecnologici che poi influenzano i cambiamenti sociali. Ho letto due libri che sono usciti un po' di anni fa, e sono Generazione Q di Umberto Galimberti e La gioventù atroce di Cesare Fiumi, che è una raccolta di come dire, fatti di cronaca riguardanti gli adolescenti. In più, due anni fa io faccio anche l'attore, anzi principalmente faccio l'attore per guadagnare e il regista per spendere per ora, però ho fatto RIS, mi hanno scelto per fare uno dei protagonisti di RIS, e il mio profilo Facebook è passato da 200 a 5.000 amici, e accade una cosa strana, perché la gente in rete ti chiede ma tu sei veramente Simone Gandolfo? Tu rispondi sì, e loro si fidano, e tu pensi ma non può essere, non può bastare per fidarsi di una persona al fatto che lui dica di essere qualcuno anche se tu non lo vedi. E ho cominciato a ragionare sul fatto che negli anni 70 si percepiva l'evoluzione, no, della colonizzazione di nuovi mondi, di nuove realtà in maniera verticale, cioè si andava su Marte. In realtà la colonizzazione è avvenuta in maniera orizzontale, cioè la rete, internet, è un altro livello di realtà. Tu però hai scelto una storia estrema, in tutte le manifestazioni che può avere la rete, tu hai scelto di puntare su qualcosa di estremo, perché? Ho scelto di puntare su qualcosa di estremo perché nel momento in cui tu levi quelle che sono le regole, diciamo, democratiche e civili, quel germe lì può essere in qualsiasi essere umano, insomma, diciamo, credo molto negli archetipi tragici, cioè nel momento in cui tu metti una lente di ingrandimento e estremizzi le cose, riesci a capirle meglio. E quindi per ragionare su questo argomento mi serviva quello. La scelta del genere è perché, parlando di adolescenti, secondo me è buona educazione, come dire, che i primi tuoi spettatori siano coloro di cui parli, e quindi era necessario creare, insomma, usare il contenitore del genere, che poi secondo me è quello che è come se fosse un vestito che tu metti intorno alla storia e ti consente di raccontarla in maniera più fluida e fruibile. Girare in inglese perché? Per venderlo all'estero, perché l'Italia è un mercato malato, e secondo me avremmo già dovuto cominciare da un po', ma è indispensabile pensare a un cinema europeo. Ultima scena del film, non la sveliamo, ma appare in un cameo il tuo produttore. Ovviamente grande interesse ha rivestito il fatto che, insomma, abbia creduto in te uno dei volti più attendibili del cinema italiano. Sì, perché lo dovete chiedere a lui. Io posso dire che è stata una collaborazione meravigliosa. Luca è un ottimo produttore, è un produttore vero, non è un attore che gioca a fare il produttore, è proprio un produttore vero, con attento, fiducioso, severo, ma che lavora sempre per il film. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Ancora lo speciale dedicato al Courmayeur Noirin Festival nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Hotel Royale Golf, Courmayeur. Due amici silenziosi, una donna che sconvolge gli equilibri in L'innocenza di Clara di Tony D'Angelo. Insieme a Luca Lionello il protagonista è Alberto Gemignani. L'aspetto dell'amicizia fra Maurizio, che è il mio personaggio, e Giovanni, che è il personaggio che interpreta Luca, è fortissima, è un'amicizia che non si capisce, viene da lontano, può essere un'amicizia decennale, da quando sono nati. È un'amicizia che comunque si basa su cose semplici, molti non detti, molti silenzi, non hanno bisogno di parlarsi, di spiegarsi le cose, di entrare nei dettagli come siamo abituati a fare noi magari. Spesso, no? Per spiegare perché, per come di un problema, si capiscono al volo, hanno dei bisogni, diciamo, primari, e questi bisogni li soddisfano insieme. La caccia, che è una grande passione, per esempio, il fatto di ritrovarsi, insomma, attraverso le piccole cose e tutto. E purtroppo, ecco, quando ci sono queste situazioni di forte amicizia, di forte legame fra uomini, qualcosa che possa far pensare a un tradimento, ma non un tradimento nel senso classico, proprio a un interrompere questo rapporto, crea un grosso sconquasso. Ecco. Questo sconquasso è biondo, ha il rossetto rosso, i tacchi, e sconvolge la normalità di un luogo tranquillo, di un'esistenza apparentemente perlomeno tranquilla. Questo, l'elemento sconvolgente biondo con gli occhi azzurri, insomma, è un elemento sconvolgente fra i rapporti, nei rapporti tra gli uomini, da quando siamo su questa terra. Fin da quando sei piccolo, insomma, la rivalità, cioè quando arriva l'innamoramento, l'amicizia prende un'altra piega, anche quando sei piccoli, adolescenti e tutto. E l'elemento che arriva a loro è esattamente quello che tu dicevi, cioè questa donna che si presenta in un contesto, diciamo, collaudato, con regole rigide, però assolutamente, diciamo, perfette, in cui la vita si svolge secondo ritmi ormai che vanno avanti da generazioni, per cui una vita tranquilla che viene resa meno tranquilla dall'arrivo di Clara. E Clara trova queste due persone, io dico, mi viene da pensare, inadeguate ad accoglierle, perché, come ti dicevo, sono persone abituate ad avere dei punti di riferimento fissi: il territorio, la loro amicizia, la caccia, le cene. E questo elemento che viene da fuori, che viene dalla città, porta tutta una serie di problematiche per loro che li rende inadeguati, e come dire, in qualche modo fa risolvere la questione in termini, diciamo, molto brutali e animaleschi, primordiali, che sono forse gli unici che loro, insomma, conoscono, non essendoci, diciamo, una dialettica, un dialogo intellettuale da sviluppare. Si ricorre a delle armi che spesso sono quelle più tragiche, ecco, per risolvere o per come dire, scrollarsi di dosso e risolvere questa questione. La Toscana, noi siamo abituati alla Firenze dell'arte, alle colline che ormai hanno fatto innamorare gli americani, gli inglesi, il cinema ha messo in scena le coste, ha messo in scena la Versilia, però qui siamo in un'altra Toscana del tutto misteriosa. Sono felicissimo che tu mi abbia fatto questa domanda, perché io combatto da quando sono nato, da 51 anni, con questo stereotipo, assolutamente stereotipo, di questa Toscana, che pure è quello che hai descritto, cioè è esattamente come dici, cioè la cinematografia, se pensi al Sorpasso di Dino Risi, loro arrivano fino a Viareggio Forte dei Marmi e tutto, poi vabbè Bertolucci che ambienta nei casali di Toscana le sue Io ballo da sola, oppure insomma tantissime situazioni bucoliche, ridanciane, positive, allegre, fresche e tutto. Invece esiste, perché io la conosco, un'altra Toscana, che è la Toscana, diciamo, più sordida, più cupa, più lontana da tutto questo, diciamo, aspetto goliardico, folcloristico e positivo. Che c'è? Palanoir, Courmayeur. Breve storia di lunghi tradimenti, Caprino, Crescentini, Sansa, nell'ultimo film di Davide Marengo. È nato leggendo un libro molto bello di Tullio Avoledo che si chiama come il film, Breve storia di lunghi tradimenti, che però è un libro molto complesso e ricco e bellissimo, e è stata una sfida poter trarne una sceneggiatura di 1:40, però abbiamo filtrato ed è emerso il personaggio principale interpretato da Guido Caprino, che è un personaggio che si in qualche modo si risveglia grazie all'avventura che gli capita di affrontare. In un cinema italiano fatto di storie intimiste e di commedie più o meno divertenti, tu addirittura porti il tuo personaggio in un misterioso paese del Sud America, insomma gliene capitano un po' di tutti i colori. Si stacca un po' dal panorama delle cose che funzionano, tra virgolette, oggi al cinema? Sì, l'intenzione mia del produttore era proprio questa, di fare un film che respirasse in modo internazionale. Credo che abbiamo questo privilegio di poter fare film che comunichino non solo con gli italiani o a volte con delle regioni italiane, ma anche di poter parlare con pubblici diversi, come sanno fare benissimo altre cinematografie. Quindi la nostra sfida, molto ambiziosa, non so se è riuscita, era questa. Tutti attori italiani, giovani, però insomma già con una certa attrattiva come personaggio, è importante questo? Beh sì, abbiamo degli attori, molti attori sia conosciuti che non, molto bravi in Italia, e io ho avuto la fortuna di coinvolgere in questo progetto sia attori con i quali avevo lavorato, sia altri come Maya Sansa, con la quale desideravo lavorare tantissimo, e sono molto contento che abbiano accettato. Sud America, come l'hai creato? Dove sei finito? Io ho aspettato i titoli di coda per capire dove fossi andato a girarlo, anche in un luogo un po' particolare. Sì, abbiamo inventato questo paese, Queimada, poi se vuoi ti dico perché Queimada, che è girato in Bolivia, il Lago Salato è boliviano, e in Colombia, Cartagena, e abbiamo infuso un patchwork, queste due bellissime geografie, in un paese immaginario che si chiama Queimada, ispirato al film di Gillo Pontecorvo omonimo, Queimada, con Marlon Brando, che raccontava un po' il colonialismo dell'epoca, e noi abbiamo in qualche modo voluto omaggiare quel film per accennare al nuovo colonialismo, che è quello fatto di denaro, non più di guerre, o non solo più di guerre, ma fatto di acquisti di nazioni e sfruttamento di popoli inconsapevoli e incolpevoli. Ci sono i temi appunto dello sfruttamento, i temi dello sfruttamento dell'ambiente e anche l'argomento dell'informazione che indaga, che va a fondo delle questioni. È ovviamente sotto traccia nella storia, ma è un elemento molto importante. Sì, abbiamo messo molti argomenti dentro, forse troppi, perché l'esigenza nostra era forte di raccontare la complessità delle cose, dove ognuno ha un ruolo, il giornalismo, l'inchiesta, il poliziotto, diciamo, che indaga di crimini finanziari che però viene ostacolato dai suoi superiori. Il personaggio principale che lavora in una banca che e gli viene chiesto di far commettere un illecito molto forte e si sente molto messo in imbarazzo per questa richiesta e la sua ribellione in qualche modo, la sua scelta è quella di riprendere coscienza come aveva prima e di risvegliarsi. Infine, una cosa che nei film italiani non c'è mai: le scene d'azione. Hai diretto delle scene d'azione? Mi sono appassionato di scene d'azione da spettatore, quindi poterle realizzare è il sogno quasi da bambino che cerco di fare in ogni mio progetto. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.